Sono le 10:35 minuti, in una piccola e quasi invisibile stazione dei carabinieri a San Fruttuoso, via Manuzio, l'ausiliario Stefano Storri apre una busta commerciale recapitata, sostiene l'arma, da una postina. Dentro c'è un portafogli da donna, quando Storri lo apre per tutta la via, lunga e stretta, echeggia un boato. Il giovane 21 anni, ad ottobre, rimane ferito all'occhio destro, a una mano e al petto. È ricoverato all'ospedale di San Martino in osservazione dopo l'intervento all'occhio. Davvero strano l'obiettivo, una stazione decentrata, quasi invisibile se non fosse per un'insegna attaccata al balcone del primo piano, dove ci sono gli uffici. La sede viene devastata, i vetri vanno in pezzi. Da quel momento è psicosi. La scientifica sta ancora raccogliendo elementi in via Manuzio, sono le 11:30, mentre scatta l'allarme per un furgone sospetto in via Gobetti, sede del comando provinciale dei carabinieri, ma il furgone è vuoto. Alle 13 sempre i carabinieri si precipitano a Boccadasse, dove sono stati avvistati gli zainetti in un cassonetto. Alle 14:30 la volta del Porto Antico, dove vengono avvistati fili elettrici e batterie, ma è solo allarmismo. Come alle 15:20 in via Isonzo, quartiere Sturla, dei passanti scoprono alcune uova depositate su un muretto appoggiate a un cancello di un palazzo. Arrivano due gazzelle, gli artificieri con il robot, i cani, vigili del fuoco e ambulanze. Il robot cerca di sollevare delicatamente le uova, scadenza 31 luglio, ci dicono, ma cadono tutte per terra. L'ultimo allarme è quello davanti all'ospedale San Martino, sono le 16, con controlli in alcuni cassonetti dell'immondizia. Le prime ipotesi investigative inducono a ritenere che l'area anarchico-insurrezionalista, organizzazione rivoluzionaria anarchica-insurrezionalista, possa essere coinvolta nell'episodio in ragione di analogie riscontrate in precedenti atti criminosi attribuiti allo stesso gruppo. Noi sosteniamo che quei proiettili dimostrano in modo chiaro come questi attentati, nei fatti, sono politicamente contro il movimento. Noi siamo molto preoccupati del tentativo di qualche giornale di costruire una relazione tra le bombe, la strategia della tensione e il movimento. Noi vogliamo essere molto molto chiari che quello che sta accadendo come strategia della tensione è contro il movimento, indipendentemente da chi agisce in quel modo e che mette le bombe. Bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Politica. Un allarme bomba che è avvenuto davanti all'entrata dello stadio Carlini, dove alloggia, possiamo così dire, il movimento che fa riferimento alle tute bianche. Con noi abbiamo Franz del Bulk. Buonasera Franz. Buonasera. L'ennesimo allarme, l'ennesima chiamata, emergenza. Molti di noi erano al media center, all'interno di riunioni, dei forum e compagnia. L'ennesimo allarme, accorrete, c'è una valigia sospetta con dei fili che fuoriescono fuori dallo stadio. Quando siamo sopraggiunti allo stadio c'erano alcune vie bloccate dalla polizia, successivamente sono arrivati gli artificieri e hanno fatto brillare questa valigetta che praticamente era posizionata a circa 50 metri dall'ingresso dello stadio Carlini. Per fortuna il clima qui in questo momento si è ovviamente rasserenato, stanno proseguendo quindi gli arrivi ormai a decine, centinaia all'interno della struttura del Carlini. Ovviamente il clima fino a un quarto d'ora, mezz'ora fa era di tutt'altro genere. Bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Politica. Nel Genoa Social Forum, al Public Forum, oggi c'erano anche delle associazioni delle donne che fanno parte della Marcia Mondiale delle Donne. Lucia Manassi ha incontrato Monica Lanfranco della rivista Marea. Il clima che si vive qui con la bomba di oggi è pesantissimo. Noi siamo anche molto preoccupate che le energie, i contenuti di questo movimento vengano, e c'è questo rischio, abbattute dalla violenza del sistema che è forte. Il nostro movimento è forte, ma è fatto anche di tanti pezzi e questa fragilità va tenuta insieme perché è l'unica ricchezza che abbiamo.